chama-me. Coisa de grande. Por causa do espiegabile. Vuole dirti tutto quello che c'è in me. Ma qualcosa mi ferma e forse sei te. Volto indietro e scopro che ho perso tante cose. Dietro a me il bagaglio è ancora pieno. Dove vado io senza di te? Dove vado se non sei con me? Dove vado senza te? Qualche lei parole bastasse per descrivere le attitudini che in me invece aiutano solo a complicare le cose. Mi è voglia di scappare lontano, lontano, lontano. Come vado io senza di te? Come vado se non sei con me? Pieno, ancora pieno. Tano, tano.